Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Per dei motivi che sarebbe troppo lungo spiegarvi, soprattutto poco interessante spiegarvi, mi sono rimesso a leggere per la seconda volta, ma la prima volta l'avevo letto tanti anni fa, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Inutile dire che è un capolavoro, ma la cosa importante da dire è che è, credo, uno dei romanzi più intrattenenti che io abbia letto di recente. Cioè, la storia, che è una storia di pirati, bucanieri e di tesori e di isole da scoprire, è proprio l'ABC dell'intrattenimento, della roba interessante, che tu abbia probabilmente 14 anni, che tu ne abbia 38 come nel mio caso, che tu ne abbia 70, comunque è bellissimo starsi a leggere questi che partono con la nave, il vento in poppa, e navigano verso quest'isola. Perché vi racconto questa storia? Perché nella puntata di oggi non parliamo di Isola del Tesoro, ma parliamo di come possa essere vissuta l'estate in due modi molto diversi tra loro. Lo facciamo oggi 19 di luglio 2013, qui voi siete qui, Radio 24. La prima storia però parla di estate e di isole deserte, è una storia che ci ha mandato Cinzia. È bello immaginare come ci sia qualcuno che in anni recenti, perché credo risalga, eccola qua, era venerdì sera di un agosto di 8 anni fa, quindi è bello immaginare come qualcuno a distanza di 8 anni, cioè nel 2005, potesse ancora immaginare che in Italia esistesse un'isola deserta. Però mi piace immaginare così un po' naif Cinzia, che parte con un suo amico, poi insomma il suo fidanzato, e con un canotto va a esplorare un'isola deserta. E nell'isola deserta c'è sempre un tesoro, che sia stato nascosto da un pirata oppure sia semplicemente delle noci di cocco fresche da mangiare o anche solo un vecchio asse buttato lì dal mare. Qualsiasi cosa si trovi su un'isola deserta ha a che fare con il tesoro. Nella seconda parte invece non parliamo di isole da scoprire, ma parliamo di mondi da scoprire, mondi che anche in questo caso sono molto estivi. Godetevi questa puntata sull'estate di oggi, 19 luglio 2013. Era venerdì sera di un agosto di 8 anni fa. Io e Paolo, come ogni venerdì, andavamo al mare. C'era un posto vicino all'isola di Albarella dove parcheggiavamo l'auto e guardavamo il tramonto. Era un posto bellissimo e ogni volta che andavamo là ci chiedevamo cos'era quel lembo verde che si vedeva all'orizzonte. Così, un venerdì, decidemmo di andare ad esplorare. Siamo capitati su sto posto, abbiamo visto sto tramonto stupendo e in fondo c'era un pezzo, un lembo di terra. E siamo partiti alle 7 di sera e siamo arrivati là alle 9:30, 10, era già buio. Abbiamo attraversato 3-4 dune e siamo arrivati veramente in isola. Cioè, era una roba stupenda, perché ci siamo svegliati la mattina con i gabbiani, siamo rimasti là 3 giorni, abbiamo fatto di quei falò e nessuno ci veniva a dire ma cosa fate. L'esplorazione l'avremmo fatta il venerdì successivo. Così, durante la settimana, abbiamo preso un canotto grande con i remi e uno più piccolo. E la previsione era trovare l'isola deserta che sognavamo. Nel canotto più piccolo avevamo stivato la tenda da 2 posti. Il barbecue, 2 sedie piccole e un tavolino. E poi il frigo portatile pieno di cose da mangiare. Il costume da bagno, l'asciugamano, l'ombrellone, 2 lampade ad olio alla citronella, 2 taniche da 5 litri di acqua, 2 coperte e soprattutto 3 boccette di Autan. Arrivammo alle 7 di sera al solito posto, parcheggiata l'auto, scaricato tutto, gonfiato i 2 canotti, li abbiamo trascinati in acqua, poi riempiti e siamo partiti a remi verso il largo per quella meravigliosa traversata di non sapevamo quanti chilometri. L'acqua era calma, si sentivano solo i gabbiani, non c'era nessuno. Arrivati a un certo punto si avvicina una barca a motore con una guardia sopra che ci dice «Ma cosa fate qui? Ma dove state andando?» E io timidamente con la mano indico «Là!» E lui ci dice «Voi siete matti, è dal 1960 che non vedo nessuno remare in mezzo a questo canale e per arrivare ci sono ancora 6 chilometri, in bocca al lupo!» La traversata sembrava interminabile e infatti raggiungemmo terra alle 9:30 di sera, su delle isolette piene di canne, gabbiani e zanzare. Io ero spaventatissima. Ci fermammo e Paolo mi disse «Aspettami qui che vado a controllare cosa c'è più avanti». E io rimasi sola al buio.